America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We should recognize that policy options in this regard come with risks. However, these risks need to be weighted against the risk of lost years of growth. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, parla da Lima, in Perù, dove si tengono quest'anno gli incontri annuali. Ci ha dato una buona notizia, o diciamo una notizia incoraggiante. Secondo il Fondo, le nostre stime di crescita miglioreranno per quest'anno dallo 0,7% allo 0,8%. Per l'anno prossimo si passa dall'1,2% all'1,3%. Il nostro governo ritiene che ci saranno probabilmente dei risultati ancora meglio di quelli previsti dal Fondo Monetario Internazionale. Rallenta la crescita mondiale nel suo insieme dal 3,4 al 3,1%, emergenti in difficoltà, se non che, ve ne ho parlato ieri, questo accordo commerciale per liberalizzare lo scambio nel bacino del Pacifico, potrebbe essere un propulsore per ulteriore crescita. Questo da un punto di vista di contesto generale. Ci sono proteste su questo accordo che arrivano, come dire, dagli ambienti più impensati. Per esempio, la Ford ha detto che farà il possibile per convincere i parlamentari a bocciare questo accordo. Sarebbe una cosa alquanto negativa. Ma perché la Ford è contraria? Perché ritiene che nell'accordo avrebbero dovuto essere inclusi dei parametri molto specifici per equilibrare il tasso di cambio, cioè per evitare che una volta tolte le tariffe, 18.000 tariffe che spariscono, poi i paesi più piccoli giocano sul tasso di cambio e recuperano competitività in quel modo. In realtà nel mirino della Ford c'è il Giappone, che ha fatto esattamente questo e che rende ovviamente più difficili le vendite di auto nel suo paese. Settore auto, tra l'altro, una notizia che ci riguarda, che riguarda la FCA, Fiat Chrysler Automobile. I lavoratori della FCA iscritti alla UAW hanno deciso di proclamare uno sciopero. Ricorderete che ci fu un accordo siglato dalla FCA, da Marchionne, col capo dei sindacati, poi però ci fu un voto contrario della base, e questo sviluppo è da una parte interessante, dall'altra antipatico, perché in questi giorni la FIA si doveva preparare a fare il roadshow per il collocamento della Ferrari da qui a qualche settimana. Detto questo, il quadro di oggi è dominato comunque dal settore auto, a Lima, al Fondo Monetario, da questi accordi commerciali che ci riguardano direttamente, perché ci sono delle sfide in arrivo dall'Asia per l'Europa, e dunque forse dovremmo accelerare anche il negoziato del TTIP, cioè del Transatlantic Trade and Investment Partnership, quindi un accordo per il libero scambio nel bacino dell'Atlantico. Con me ai microfoni di America 24 per parlare proprio di questo, Deborah Serracchiani, presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che guarda caso proprio in questi giorni è in America. Ieri era a New York, oggi a Washington, per promuovere la sua regione, per attirare investimenti, per ampliare, come dire, l'interscambio commerciale con i prodotti del Friuli Venezia Giulia, che molto spesso sono prodotti di origine denominazione controllata. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. È d'accordo con questa idea che c'è una sfida in arrivo dall'Asia e dunque le pressioni aumentano perché anche noi chiudiamo questo negoziato? Ma sicuramente è una sfida globale ormai, e credo che fondamentalmente l'Europa debba anche riuscire a fare in qualche modo massa critica. La ragione di questi grandi accordi è che oggettivamente siamo di fronte ad un mercato sempre più grande, sempre più difficile in qualche modo da gestire, nel quale l'Europa può fare la propria parte se si mantiene unita. Un po' quello che è accaduto qualche mese fa, credo ormai più di un anno fa, per quanto riguarda i rapporti tra l'Unione Europea e il Canada. Anche in quel caso sono stati raggiunto un accordo che ha aperto degli spazi importanti. Ovviamente, come diceva lei, ci sono però dei limiti da rispettare. Ecco, lei ha detto, infatti, giustissimo, essere uniti. Devo dire, gli americani sono un po' preoccupati per ciò che riguarda l'Italia, perché ritengono che ci sia questa richiesta di regole durissime, rigidissime, sul cosiddetto Italian sounding, cioè quei prodotti alimentari o non alimentari che rivendicano una radice italiana e dunque un'immagine italiana, pur non avendola assolutamente. Il classico esempio è quello del Parmesan cheese, cioè il parmigiano, che poi magari è fatto in Wisconsin. Ecco, la sua regione ha molti interessi da difendere in questo campo: prosciutto San Daniele, prosciutto De Sauris, i salamini, il formaggio Montasio e così via. I vini, tra l'altro, mi pare che proprio voi avete dovuto cambiare il nome del Tokaj in friulano. Esatto, questo per una vicenda legata, diciamo, alle registrazioni dei marchi con l'Ungheria. L'Ungheria, tra virgolette, è arrivata prima, ha fatto una richiesta all'Unione Europea, l'Unione Europea ha dato ragione all'Ungheria e quindi abbiamo dovuto cambiare il Tokaj in friulano. Questo è accaduto già da qualche anno. Ecco, però fino a che punto dobbiamo spingerci per rivendicare con durezza questo Italian sounding? Capita a volte che per vendere un prodotto si utilizzi magari un termine inglese, guardo per esempio quando lo fanno gli italiani, nell'abbigliamento capita spesso, però attenzione perché sull'agroalimentare c'è una questione di tracciabilità, di qualità, di prodotti che devono essere super controllati, che spesso vengono prodotti con dei disciplinari particolarmente rigidi. Io direi che il limite è che quando ci sono dei prodotti che hanno un riconoscimento particolare, un riconoscimento, anche una certificazione di qualità, lei citava il parmigiano reggiano, pensi che solo la mia regione ha 151 prodotti tipici riconosciuti, ovviamente il limite dell'Italian sounding deve essere quello di non togliere fette di mercato o di inquinare la qualità del prodotto che ha questo riconoscimento così forte. Insomma, un conto è dire formaggio italiano, un conto è utilizzare l'Italian sounding per dire parmesan o per dire montasio o per dire altro. Ecco, guardi, passiamo a un caso concreto. Lei, presidente di una regione, ha 151 prodotti ben identificati. Ecco, dov'è che lei accetterebbe un compromesso su alcuni di questi prodotti pur di salvare il grande accordo? Insomma, lei farebbe o no un compromesso? Se questo significa che l'accordo ci fa conquistare mercati che in questo momento ci sono preclusi, vuoi per i dazi, vuoi per le difficoltà dell'importazione, vuoi per altri motivi, dico che il compromesso va assolutamente fatto, nei limiti in cui però non degenera l'utilizzo dei termini intaccando la qualità e la certificazione dei nostri prodotti. Bene, quindi mi sembra che nel momento in cui si sta negoziando il messaggio è linea dura. Insomma, io direi che su questo dobbiamo mantenere fermo il nostro principio. Penso a quello che sta accadendo in Europa sul Made in Italy. C'è una battaglia epica che stiamo facendo. Purtroppo noi siamo tra i produttori e quindi siamo un po', diciamo, di meno rispetto ai paesi consumatori. Noi vorremmo ad esempio che un prodotto prevalentemente fatto in Italia, fatto fuori dall'Italia, non possa essere definito con il marchio italiano. È un po' una logica che sta non solo nella qualità della nostra capacità manifatturiera, ma anche nel fatto che stiamo dall'altra parte proteggendo i consumatori, cioè il consumatore deve acquistare un prodotto italiano sapendo che è italiano, non che si chiama solo in modo italiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. In questa puntata di oggi ha dominato in un modo o nell'altro l'Italia in America, l'Italia a livello internazionale. Dunque, di Dean Martin, Mambo Italiano. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's Mambo, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up a Siciliana, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. You don't wanna tarantala, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an angelada with the fish baccalà and then hey gumba. I love how you dance the rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!